Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Una sera, Tegularius arrivò di corsa nella foresteria. Cercò Josef, lo fece entrare in una camera vuota, chiuse la porta e sbottò. Josef, Josef! Oh, Dio mio, dovevo pure immaginarlo. Avrei dovuto saperlo, non era difficile. Sono fuori di me e non so proprio se devo essere contento. E poiché aveva accesso a tutte le fonti di notizie nel villaggio dei giocatori, raccontò affannato che era molto probabile, anzi era quasi certo, che Josef sarebbe stato eletto maestro del gioco delle perle di vetro. «Vedrai, Josef, che ti faranno magister!» esclamò ancora una volta. Ma Knecht gli pose una mano sulle labbra. Fin dal primo momento era rimasto sorpreso e non meno commosso di Fritz, e l'ipotesi gli era parsa assolutamente impossibile. Ma mentre l'altro gli comunicava le opinioni che circolavano nel villaggio dei giocatori sulla situazione e sull'andamento del conclave, incominciò a intuire che la supposizione dell'amico non era errata. Anzi, sentiva come un consenso dentro di sé, quasi l'impressione di averlo già saputo e atteso come cosa giusta e naturale. Mise dunque una mano sulle labbra del compagno irrequieto. Lo guardò con occhio estraneo e ammonitore come da un'improvvisa lontananza e disse: «Non parlare tanto, Fritz. Non voglio saperne di queste chiacchiere. Torna dai tuoi compagni». Tegularius, per quanto avesse ancora un monte di cose da dire, ammutolì davanti allo sguardo col quale lo fissava un uomo nuovo, ancora sconosciuto, e se ne andò, pallido come un cencio. In seguito ebbe a raccontare che la strana calma e freddezza di Knecht in quel momento lo avevano colpito come un'offesa, come uno schiaffo, un tradimento della loro vecchia amicizia e confidenza, una quasi incomprensibile anticipazione della sua prossima carica di massimo superiore. Ma non appena questi, perplesso e quasi mortificato, uscì, Josef cercò un angolo tranquillo per meditare e raccogliersi e incominciò le sue considerazioni da un ricordo che, in quell'istante, lo aveva assalito con straordinaria vivezza. Gli parve di vedere una camera spoglia con un pianoforte. Dalla finestra entrava la quieta e fredda luce antimeridiana e sulla soglia compariva un bell'uomo, affabile, già abbastanza avanti negli anni, coi capelli grigi e il volto buono, luminoso e pieno di dignità. Josef era un piccolo allievo della scuola di latino che, in quella camera, aveva atteso, tra contento e spaurito, il maestro di musica, e ora vedeva per la prima volta quell'uomo venerabile, il maestro della leggendaria provincia dell'Elite, il magister venuto per mostrargli l'essenza della musica, il quale poi l'aveva introdotto e accolto a mano nella sua provincia, nel suo regno, nell'elite e nell'ordine, e del quale ora era diventato collega e fratello, mentre il vecchio aveva deposto la bacchetta magica o lo scettro, trasformandosi in un vegliardo cortesemente taciturno, ancora benevolo, ancora venerando, ancora timoroso, il cui sguardo e l'esempio dominavano la vita di Josef. L'uomo che l'avrebbe preceduto sempre di una generazione, di alcuni gradi nella vita, di una misura incalcolabile di dignità e nello stesso tempo di modestia, di maestria e di mistero, ma essendo sempre il suo patrono e modello, lo avrebbe spinto dolcemente a imitarlo, come l'astro che sorge e tramonta trascina con sé i propri fratelli. Pochi giorni dopo, convocato alla direzione dell'ordine, vi andò tranquillamente e accolse con serena gravità il saluto fraterno dei supremi esponenti di Castalia, una stretta di mano e un abbraccio appena accennato. Gli si annunziò la nomina a maestro del gioco delle perle e lo si invitò a presentarsi 2 giorni dopo nel salone delle feste per essere investito della carica e presentare il giuramento. E nell'intervallo meridiano di quella faticosa giornata Josef ricordò vivamente come era stato accolto nell'ordine e introdotto alla musica dal vecchio maestro. All'ex maestro di musica confessò più tardi che in quel giorno di intenso esame di coscienza era stato tormentato da un pensiero, da un'idea del tutto ridicola. Aveva avuto paura del momento in cui uno dei maestri gli avrebbe fatto notare in quale giovane età otteneva la carica suprema, e aveva dovuto lottare con questo timore, con questa idea puerilmente vana e con la voglia di rispondere, qualora si facesse allusione ai suoi anni: «Ebbene, lasciatemi diventare più vecchio. Non ho mai aspirato a questo onore». Se non che, continuando a esaminare se stesso, si era accorto che nell'inconscio il pensiero della sua nomina, il desiderio di ottenerla, non dovevano essere stati molto lontani da lui. Se lo era confessato, aveva conosciuto e liquidato la vanità di questo pensiero, e né quel giorno né in seguito i colleghi gli rammentarono mai la sua età. L'insediamento di un maestro non è una solennità pubblica. Vi partecipano, oltre alla suprema autorità pedagogica e alla direzione dell'ordine, soltanto i membri più anziani della scolaresca, i candidati e i funzionari di quella disciplina che riceve il nuovo magister. Il maestro del gioco delle perle doveva prestare giuramento nel salone delle feste, ricevere dall'autorità suprema le insegne del suo ufficio, consistenti in alcune chiavi e sigilli, e farsi imporre dall'oratore della direzione la sopravveste festiva che il magister deve portare nelle solennità maggiori, soprattutto nella celebrazione del gioco annuale. La vestizione fu compiuta dall'oratore dell'ordine e dal supremo archivista del gioco. Reggendo insieme la veste, la posero sulle spalle del nuovo maestro. Il breve discorso fu tenuto dal magister grammatiche, il maestro di filologia classica a Kuiperheim. Un rappresentante di Waldzell, designato dall'élite, consegnò le chiavi e i sigilli, e all'organo si vide l'anziano maestro di musica in persona. Aveva fatto il viaggio per assistere alla vestizione del suo protetto e per fargli una gradita sorpresa con la sua inaspettata presenza, forse anche per dargli qualche consiglio. Il vegliardo avrebbe desiderato suonare con le proprie mani la musica solenne, ma non era più in grado di assoggettarsi a questa fatica. Perciò aveva affidato l'esecuzione all'organista del Vicus Lusorum e, messosi alle sue spalle, gli voltava le pagine. Ma soltanto pochi momenti poté parlare da solo a solo col giovane Joseph. Gli sorrise serenamente e si affrettò ad ammonirlo. «Bada di superare bene le prime 3 o 4 settimane, poiché molto si pretenderà da te. Pensa sempre all'insieme. Pensa che una negligenza nei particolari non è molto grave. Devi dedicarti tutto all'élite e non permettere che il resto ti sfiori nemmeno il pensiero. Ti manderanno 2 persone in aiuto. A una di esse, il Yogino Alexander, ho già parlato io stesso. dagli retta perché sa il fatto suo. A te occorre la fermissima convinzione che i superiori hanno fatto bene ad accoglierti fra loro. Abbi fiducia in loro, fiducia nelle persone che ti manderanno in aiuto, cieca fiducia nelle tue forze. Verso l'elite, invece, abbi una sfiducia gaia e sempre vigile. Da te non si aspetta altro. E tu vincerai, Joseph, lo so. Le funzioni educative del Magister gli erano, per la maggior parte, assai note e familiari, dato che già vi si era dedicato come subalterno o come assistente. Certo è che Knecht era costretto a svolgere da sé la parte maggiore e migliore dei suoi compiti per indagare quello strato più alto, più vivo, più irrequieto e suscettibile nell'ambiente del gioco e impadronirsene come il cavaliere conquista un nobile destriero. Infatti, in ogni istituto castalio, non solo nel gioco delle perle, l'elite dei candidati che hanno raggiunto il perfezionamento ma ancora compiono studi liberi e non sono occupati al servizio dell'autorità pedagogica o dell'ordine, ossia i cosiddetti ripetenti, costituisce il fondo più prezioso e la vera riserva, il fior fiore e la promessa. E dappertutto, non solo nel villaggio dei giocatori, questa superba elite di successori tende alla critica e alla sostenutezza verso i nuovi insegnanti e superiori. Tant'è vero che a un nuovo capo tributa il minimo indispensabile di cortesia e subordinazione e deve essere conquistata, convinta e sottomessa con l'opera personalissima e con tutto l'impegno di chi la vuole conquistare, prima che essa lo riconosca e si assoggetti obbediente alla sua direzione. L'autorità gli aveva messo al fianco, per quei primi tempi, un ripetitore e controllore che sorvegliava la sua giornata di ora in ora, consigliandolo nella distribuzione del tempo e preservandolo da esclusivismi e dagli eccessi di fatica. Knecht gli era riconoscente e più ancora lo era all'inviato della direzione dell'ordine, un maestro di grande fama nell'arte della meditazione, il quale si chiamava Alexander. Mentre i ripetenti notavano l'enorme lavoro del loro magister con simpatia e con battagliero interesse e non tralasciavano alcuna occasione di imporgli prove di energia, di pazienza e di prontezza, mirando ora a incitare la sua operosità, ora a frenarla, si era venuto formando intorno a Tegularius un vuoto antipatico. Egli si rendeva conto che Knecht non poteva avere per lui tempo e attenzioni, ma non sapeva essere abbastanza insensibile e indifferente al completo oblio nel quale pareva che l'amico l'avesse improvvisamente relegato, tanto più che non solo l'aveva perduto da un momento all'altro, ma era anche guardato con qualche diffidenza dai suoi compagni che raramente gli rivolgevano la parola. Ma, come confessò più tardi all'amico, non lo fece apposta e consapevolmente. Il fatto è che l'aveva addirittura dimenticato, si era reso strumento del proprio ufficio fino al punto da confinare nell'impossibile le cose private come l'amicizia, e se talvolta, come ad esempio in quel seminario con 5 partecipanti, la figura e il volto di Fritz gli comparivano dinanzi, questi non era Tegularius, non era un amico, un conoscente, una persona, ma uno dell'élite, uno studente, un ripetente e candidato, una parte del suo lavoro, un soldato delle truppe che doveva addestrare e condurre alla vittoria. Infine, la meta fu raggiunta. La battaglia fu vinta. Non era stato facile conquistare l'élite, stancarla a furia di esercizi, domare gli ambiziosi, cattivarsi gli indecisi, imporsi ai tracotanti. Ma ormai l'opera era finita. I candidati del villaggio avevano riconosciuto il loro maestro e gli si erano arresi. E tutto procedeva con facilità, come se fosse mancata soltanto una goccia d'olio. Il ripetitore combinò insieme con Knecht un ultimo programma di lavoro, gli espresse l'elogio delle autorità e scomparve. Alexander, il maestro di meditazione, fece altrettanto. Quando si presentò la seconda volta alle autorità, Knecht comprese benissimo, senza che nessuno facesse parola, di essere pari ai suoi colleghi. Era il frutto del duro periodo di prova che lo aveva arso come nessun altro servizio e nessun altro sforzo fino ad allora. Il riconoscimento del reggente da parte dell'élite si manifestò questa volta in un gesto particolare. Quando sentì che le resistenze cessavano, che i ripetenti avevano fiducia ed erano d'accordo con lui, quando fu convinto di aver superato le più gravi difficoltà, Knecht reputò giunto il momento di scegliersi un'ombra. Rinunciò al suo diritto di scelta fra i candidati e invitò i ripetenti a mettergli a disposizione un'ombra di loro gradimento. L'élite prese quell'invito più che mai sul serio, fece la sua scelta dopo parecchie sedute e consultazioni segrete e propose al magister come sostituto uno dei suoi uomini più in vista, che fino alla nomina di Knecht era stato tra i più probabili successori del precedente magister. È vero che il peggio era ormai dietro le spalle, che erano tornate le passeggiate e la musica. Col tempo si sarebbe potuto ripensare alla lettura, sarebbe stato possibile riprendere l'amicizia con Tegularius e così il carteggio con Ferromonte. Ogni tanto si sarebbe preso mezza giornata di vacanza o magari un breve permesso di viaggio. Ma tutti questi favori dovevano andare a vantaggio di un altro Joseph, non di quello che si era considerato diligente giocatore di perle e buon cittadino di Castalia, e aveva vissuto in innocente egoismo, una vita incredibilmente privata e sgombra di responsabilità. Thank you. In un'occasione solenne, al termine di un corso di perfezionamento per gli insegnanti del gioco, Josef si pronunciò nel modo seguente. La Castalia è un piccolo stato autonomo e il nostro Vicus Losorum uno staterello entro quello stato, una repubblica piccola ma antica e superba, coordinata e legalmente pari alle sue sorelle, e nella coscienza di sé corroborata e innalzata dal carattere artistico e religioso delle sue funzioni. Noi, infatti, abbiamo l'onore di custodire il vero sacrario della Castalia, il suo singolare simbolo e segreto, il gioco delle perle di vetro. La Castalia educa eccellenti musicisti e storici dell'arte, filologi, matematici e altri scienziati. Ogni istituto e ogni abitante della Castalia dovrebbe conoscere soltanto due scopi e ideali: rendere il massimo e con la massima perfezione nel proprio campo e mantenere questo campo e se stesso vivo ed elastico, sapendo che sono costantemente collegati con tutte le altre discipline e intimi amici di tutte. Questo secondo ideale, il concetto dell'interiore unità di tutti gli sforzi spirituali dell'uomo, il pensiero dell'universalità, ha trovato la sua perfetta espressione nel nostro gioco illustre. La parte migliore e più viva della nostra istituzione è il vecchio principio castalio dell'élite, la scelta dei migliori. Le scuole della Castalia raccolgono gli alunni più bravi di tutto il paese e li perfezionano. Allo stesso modo, cerchiamo di scegliere nel villaggio dei giocatori i più bravi fra quelli che hanno maggiore intelligenza e amore per il gioco. Cerchiamo di trattenerli e di portarli verso la perfezione. Talvolta si è biasimata l'esistenza dell'élite. Si è detto che è un lusso e che non dovremmo formare più giocatori di quanti siano necessari per occupare decentemente tutte le nostre cariche. Se non che, in primo luogo, i funzionari non formano un'istituzione autosufficiente e poi non tutti sono adatti a diventare funzionari, come per esempio non tutti i filologi sono anche adatti a insegnare. In ogni caso, noi funzionari sappiamo e sentiamo che i ripetenti non sono soltanto una riserva di persone intelligenti ed esperte del gioco, con la quale colmiamo le nostre lacune e dalla quale ricaviamo i nostri successori. Nelle vostre mani, ripetenti di Waldzell, sta l'avvenire del gioco. Siccome esso è il cuore, è il centro della Castalia, e voi siete la parte più viva del nostro villaggio, siete veramente il sale della provincia, ne siete lo spirito e il fermento. Noi amiamo le scienze, ma sappiamo pure che la dedizione a una scienza non può proteggere interamente un uomo dall'egoismo, dal vizio e dal ridicolo. La storia delle scienze è piena di esempi. La figura del dottor Faust è la volgarizzazione letteraria di questo pericolo. Altri secoli hanno cercato rifugio nell'accoppiamento di spirito e di religione, di indagine e ascesi. Nella loro universitas letterarum regnava la teologia. Da noi, invece, si cerca di scongiurare la nostra animalità e il diavolo che c'è in ogni scienza, mediante la meditazione e la graduale prassi dello yoga. Ebbene, voi sapete quanto me che anche il gioco delle perle nasconde il suo diavolo, che esso può diventare vacuo virtuosismo, godimento della propria vanità artistica, arrivismo, e può portare all'acquisizione di poteri sopra gli altri, e poi all'abuso di questi poteri. Perciò occorre anche un'altra educazione, oltre a quella intellettuale, e noi ci siamo assoggettati alla morale dell'ordine non per deviare la nostra attiva vita spirituale verso una vita di sogno vegetativa, bensì per essere capaci di dare il massimo rendimento spirituale. Non dobbiamo rifugiarci dalla vita attiva nella contemplativa, né viceversa, ma procedere alternando l'una all'altra, vivendo l'una e l'altra, e partecipando ad entrambe. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.